Giochini temporali che qua 451 tanto ci piacciono fare, ovvero come cercare appunto questo battito, magari citando Africa Bambaataa, perfetto, forse più che perfetto qua lo cerchiamo proprio imperfetto, rudimentale, basico. Tornando indietro nel tempo, dopo la prima parte dedicata essendo essenzialmente a Sandwell District, quindi ai progetti storici e anche i progetti insomma che stanno reggendo la faccenda assai interessante appunto di questa techno decisamente rudimentale, grezza e metallica, un po' insomma il trade union tra Rudimenti 1 e Rudimenti 2, le due trasmissioni appunto di 451 frammenti sonori. Sono riuscito anche abbastanza a evitare le ripetizioni del titolo della ragione sociale, anzi della trasmissione che state ascoltando. E questa seconda parte appunto è in entrata storico disco eccezionale di La Zone Dangereuse, francese, soltanto il appunto la ragione sociale, ma tutt'altra faccenda invece in termini geografici, visto che i tre erano tedeschi, tedeschissimi anzi, Beate Bartel, Christo Lassa e Krishna Goneau, personaggi insomma decisamente sopra le righe, ma già lo erano con il progetto ad esempio di Christo Lassa, Der Plan, storica formazione che unisce in un certo qual modo i sintomi del cosmico, della meccanicità cosmica con la wave, con la Deutsche Welle tedesca, appunto la wave di quella terra incredibile a livello sonoro, soprattutto per quanto riguarda elettroniche e visionarietà, visto che la terra insomma di Stockhausen, di Kraftwerk, di Cannes, di appunto La Zone Dangereuse, che erano anche DAF, quindi in una certa qual maniera prendiamo uno dei termini forse fondamentali di paragone per quanto riguarda i rudimenti di questo battito metallico, di questa industrial dance. DAF crearono eccezionalmente quella che poi sarà definita electronic body music, EBM, con Front 242, Frontline Assembly, Skinny Puppy, insomma formazioni che hanno portato quella materia piuttosto scabrosa a livello sonoro dell'industrial verso dei club ma decisamente post-apocalittici, decisamente futuristici nel loro disegnarsi distopici, quindi anche fuori da orbite clubistiche, comunque già dentro La Zone Dangereuse con il disco omonimo del 1981 si intravedevano, certo in forme veramente alterate. La club culture per tanti versi non sarà o lo sarà per brevissimo tempo questa forma alterata, questa forma allucinata, se pensiamo prima abbiamo citato la techno di Troy, ma potremmo citare la Chicago delle Tracks, della Jack, dell'Acid, forse più conosciuta in questa maniera, quindi una forte alterità, allucinazione sonora, club che sembravano più delle astronavi rotte più che meccanismi perfetti, anche fin troppo oliati, fin troppo insomma dentro una meccanica che poi con l'andare del tempo si è anche sviluppata in maniera stanca, non producendo quel suono futuristico, quell'ambiente, quell'ambiance futuristica che invece le musiche che stiamo ascoltando questa sera hanno o avevano, insieme alla Zone Dangereuse con il loro caposaldo dell'elettronica, appunto con Chris Donastro che passava da Duff Der Plan. Abbiamo ascoltato 808 State, storica formazione dell'acid techno inglese, tra i primissimi veramente, già con Beating Tongue dentro quella wave mutante che andava verso sonorità anche lì industrial dance per alcuni episodi, che poi si trasformò in maniera anche piuttosto eccezionale in 808 State, fondativi per tutta la techno e l'acid della seconda metà degli anni 80. E d'altronde non si può avvertire, ma in un certo qual senso c'è una continuità piuttosto forte con il pezzo ascoltato di La Zone Dangereuse, invece che viene dal 1981, le prime session acide di 808 State vengono dal 86-87. Pochi anni di differenza, anche se insomma di acqua sotto i ponti nella passata, soprattutto era finita la wave e stava iniziando quel terremoto incredibile che sarà appunto la prima techno e la prima acid, che porteranno insomma a nuove malfunzionalità questa macchina tremenda, questa macchina eccezionalmente futuristica che si può intravedere tanto in Sandwell District, tanto in 800 State, tanto in La Zone Dangereuse, come in buona parte della Neue Deutsche Welle, e tanto anche in quei 90 che accennavamo inizio trasmissione di Olento, side project di Mika Vaino. Sapete chi è Mika Vaino? Sì che lo sapete, via, se non andate a cercare su vari motori di ricerca. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, una della metà del duo panasonico, dei Panasonic, quindi, o Pansonic, poi divenuti tali. E rispetto alla progettualità di Panasonic, che era memore della meccanica brutale dell'industria, ma soprattutto come suono, come ricerca timbrica di questo, invece per quanto riguarda la progettualità di Mika Vaino, soprattutto con questo lento che andremo a sentire, e la meccanica ritmica, quella che interessa un po' faccenda insomma legata questa sera ai rudimenti, ai basic rhythm che stiamo cercando di rintracciare, e proprio facendo una sorta di apologeo di queste sonorità di La Zone Dangereuse, di una wave spiritata, di una wave veramente perturbante, e faceva Mika Vaino questo ma con proprio una delle formazioni assolutamente fondative di tutte le elettroniche, assolutamente fondative per quanto riguarda il discorso di questa sera, ma non solo, per tutte forse le devianze musicali che dalla seconda metà degli anni 70 hanno attraversato le musiche altre, e anche le eccezionalità progettuali come quella appunto di Throbbing Gristle, che qua vengono appunto citati e vengono omaggiati con un loop ritmico poi loro, legato a Hamburger Lady, un pezzo storico appunto della storica formazione londinese. Ce l'andiamo a sentire in una versione appunto altrettanto trasfigurata appunto da Olento di Mika Vaino. Thank you. Beh, notevole l'apporto di O Barrato, questo poi era il progetto di Mika Vaino, in leggibile. E, sì, fondamentalmente quello che veniva fatto non era poco, anzi era un passo decisivo anche, soprattutto parallelo anche con i lavori di Pansonic e, se vogliamo, anche di altri grandi degli anni 90, ovvero Autechre, era quello di rendere la techno una sorta di ibrido assurdo. Forse più che di ibrido si può parlare proprio di un'apertura e di una dilatazione tecnologica dentro la materia dubbistica, quindi un techno dub che macinava e dentro di sé aveva quella forza meccanica della certa industrial wave, certe, come dire, velenosità che continuavano a rimanere dentro questo corpo tecnologico, questo corpo tecno trasfigurato appunto da una dimensione dilatata data da una dub che anticipa per tantissimi versi e forse anche parallelo, se pensiamo a Maurizio, alla Basic Channel e a quel suono dubbistico che ci porterà appunto alla dubstep e a queste sonorità che stanno spostando la dubstep, incrociandola con la techno, ma anche con questo rumore di fondo, con questo rudimentale ronzio che va appunto a impattare anche quella materia sonora di ad esempio Liaison Dangereuse, o dentro appunto l'acido trasfigurato già di per sé, insomma, dell'acid di 808 State. E Andy Stott forse rappresenta quella fase, possiamo chiamarla così, ritmica di una dilatazione che ci porta quasi a una astrazione, prendendo le mosse da varie faccende musicali, faccende motoristiche, direi, tanto i motoric di Mika Vaino, tanto certi motori in industrialoidi e memory di altre alterità e altri terrorismi meccanici come quelle di Autechre, dilatazioni, astrazioni di Basic Channel. Andy Stott un po' sintetizza questo suono e tra l'altro così anche lanciando questa anche visionarietà anche vagamente marziale, una marzialità però che ovviamente non è semplicemente guerra mediatica, un qualcosa comunque di postumo evidentemente, sia per così tristezza di luoghi sonori, malinconie che comunque invadono questo suono. E anche in questo caso forse si può parlare come dire, emotività per quanto dentro delle macchine che provengono appunto da quelle strane animosità che si mettevano dentro alle wave rudimentali meccaniche che per molti versi stiamo trattando direttamente e indirettamente questa sera. Andy Stott dal suo Luxury Problem, che sia veramente una faccenda di problematiche legate alla lussuria. Notevole la faccenda, più che notevole qua si va a prendere insomma materie piuttosto scottanti, soprattutto nel riguardo un immaginario anche decisamente scuro che sta attraversando i nostri giorni, in questo senso sia Andy Stott che personaggi che circolano intorno a un'idea di post dubstep, a questo punto lo possiamo anche definire tale, visto che insomma si sta andando oltre anche a quella definizione data dal dubstep, si sta cercando insomma perlomeno di oltrepassare quella già visionarietà anche quella chiaramente umoralità sonica del dubstep. E Andy Stott, come d'altronde personaggi che fanno dello squilibrio forse un elemento di quasi di salvezza, se Andy Stott rimane piuttosto ferreo nel suo proporsi in termini musicali, gli attraversamenti malinconici ci sono e forse rendono un po' umana musica di Andy Stott, in questo senso insomma la marzialità sonora rimane comunque piuttosto integra, compatta come appunto rudimento espressivo. E invece per quanto riguarda la Vampires Matrix Metals, forse ecco appunto il delirio, lo squilibrio, il buttarsi a capofitto dentro una allucinante apocalisse che prende quasi così l'idea di una sana incoscienza, nel senso che appunto è sano come elemento di sopravvivenza, come elemento appunto quasi di possibilità, data ancora una vitalità che comunque musicalmente c'è, magari sì, forse come a dire una irrealtà che cerca in maniera anche piuttosto sfinita, forse anche questo è il fascino di Matrix Metals, così ridare vita appunto a sonorità metalliche, ma gli stessi insomma la stessa meccanica, una sorta di quasi respirazione bocca a bocca che si può fare a un robot, quindi l'impossibilità di farlo riprendere, eppure così in maniera folle, paradossale, è come dire la macchina si riaccende con Matrix Metal, quindi con tutti rimandi delle varie macerie sonore degli 80 e uno strano svisamento anche dell'acid, della techno e di una wave veramente tanto vaga da forse sfiorare anche qua, come spesso accade per musiche nuove che passano qua 451, anche l'ipnagogico. E Matrix Metal insieme alla Vampire, che poi insomma come personaggio anch'essa ci dà una forma disperata di quello che può essere così un ricordo, un rimando alla wave, al gotico che si fa hippie nella sua trasformazione mostruosa e che comunque si comprende anche una sorta di cosmicità è andata male dentro appunto un paradosso voluto anche da un grande personaggio come Amanda Brown, che con Pocahontas fa dello sfacelo un verbo sonoro piuttosto vitale dentro appunto la progettualità di La Vampiras, in questo caso appunto con già citati Matrix Metal. Ce l'andiamo a sentire da un titolo che non è affatto casuale, anzi ci racconta molto di come la vedano La Vampiras e Matrix Dax Metal, ovvero il disco So Unreal. We'll be right back. assurdità sonore, quelle di La Vampires insieme a Matrix Metals, per questo Unreal, perdonate l'inglese pessimo che accompagna 451 in particolar modo, e, insomma, delegato a sottoscritto Max Macchia, e sì, con l'irrealtà, l'assurdismo, la frattaglia sonora, quasi una sorta di bastone dato da, insomma, a un porcilaio sonoro volutamente greve, volutamente, insomma, sgraziato, come quello appunto di Da Vampires e Matrix Metal. Si può andare a ritrovare quell'attitudine che stiamo cercando appunto attraverso quel battito ritmico, a quel rudimento che stiamo trattando, insomma, in seconda puntata qua 451. E se la Vampires con Matrix Metal si rifanno quasi a questa poltiglia, forse anche miracolosa per alcuni aspetti, e con tanto, insomma, di frattaglia, ma metallica per quello che può significare. Beh, ci sono stati progetti veramente liminari, soprattutto, insomma, in quella di New York, passavano dalla Celluloid, legata soprattutto a Bill Oswell, che nei primi anni 80 si occupava di quella mutazione incredibile che era l'elettrofunk, oltre che quel suono post jazz che ha portato anche a fare cose grigie con Material, ma con veramente tantissimi progetti, e produceva in Indoor Life. Vi dico soltanto che c'è un personaggio che si chiamava George Socarras, che già, insomma, il cognome vi dice, insomma, le sue origini latine, Patrick Cowley. E per chi non conoscesse Patrick Cowley, il padre della High Energy, di quella disco spinta portata soprattutto a un'esasperazione ritmica che alla fine degli anni 70, primissimi anni 80, non era ancora arrivata, con personaggi come Patrick Cowley arriverà. Bisogna soltanto ringraziarlo, fosse altro che per quel remix incredibilmente futuristico che è legato al lavoro di Moroder su Donna Summer di I Feel Love, 15 minuti di veramente poltiglia meccanica portata all'eccesso, veramente cosa che per chi, insomma, vuole assaporare minimamente, insomma, l'elettronica storica, bisogna come dire passarci. Poi potete odiare quanto volete la disco e la paradisco, la disco underground, la High Energy, eccetera, ma da lì, insomma, da quel remix bisogna passarci, come anche in una sorta di così di strano connubio anche un remix su Kill Hill of Kathmandu di Tantra, progetto Italo Disco, che viene recuperato anch'esso in una chiave assolutamente irreale, veramente da sogno, o per meglio dire da incubo finale, da vari ipnagogici, ma anche dagli stessi Matrix Metal ascoltati prima. E Socarras, tra l'altro, con Patrick Cowley farà un disco con titolo già controverso, legato al cattolicesimo, e che, insomma, e Catholic proprio, che esprime veramente in maniera anche piuttosto paradossale quello che poi sarà anche un certo disegno wave, seppur Patrick Cole, insomma, legato alla disco, alla energy, poi in realtà per tanti versi con Socar Carras, appunto disco del 77, edito veramente in pochissime copie, questo Catholic che invece rivedrà la luce nel suo splendore nel 2009. Ci porta insomma per forza a trattare di materie sonore imbastardite e volutamente insomma conturbanti, dentro anche quella progettualità perversa, stupendamente perversa, che era quella di Loswell, della Celluloid dei primi anni Ottanta. Ci andiamo a sentire appunto questo progetto che prevedeva anche Bob Hofner e J.A. Dean, Indoor Life, disco anch'esso incredibile dell'81, come quello proprio di La Zone Dangereuse, ascoltati all'inizio della seconda parte di 451, dedicata ai rudimenti, seconda parte, seconda trasmissione, anzi, per meglio dire. E così va abbandono dentro questo flusso impossibile, flusso tra metalli deliranti e sensi del futuro assolutamente folli, assolutamente visionari in questo senso. E Indoor Life, quindi Voodoo, il pezzo che ci andiamo a sentire per concludere questo viaggio dentro appunto i metalli, in questo caso veramente deviati e devianti, di Indoor Life con la loro Voodoo. Buonanotte, ci risentiamo domenica prossima. È ancora un assaggio insomma di metalli andati a male, di questi rudimenti di 451. Ciao. We'll be right back.